Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. È la signora della letteratura latinoamericana. Nonostante abbia passaporto statunitense da tanti anni e viva in California, Isabel Allende si sente profondamente cilena. In Cile ha trascorso la sua infanzia. Suo zio era Salvador Allende, il presidente che fu ucciso durante il colpo di Stato di Pinochet. L'Allende è diventata famosa in tutto il mondo con il suo primo romanzo La casa degli spiriti negli anni Ottanta. Ora in libreria con L'amante giapponese, pubblicato in Italia da Feltrinelli con la traduzione di Elena Liverani. Un romanzo appassionante, ma con uno stile molto diverso dai suoi primi, dove prevaleva il realismo magico. Qui lo stile è più asciutto, quasi anglosassone, e ambientato in una casa di riposo. Protagonista è Alma, una donna di oltre 80 anni. Una ragazza che lavora nell'istituto, Irina, dal passato doloroso, diventa la sua assistente personale. Con la complicità del nipote di Alma, ricostruiscono la storia appassionante della sua infanzia, ma soprattutto il grande amore e la passione che l'hanno legata per tanti anni al suo amante giapponese. Ma perché una storia d'amore con una protagonista già così avanti negli anni? Ecco che cosa ci ha risposto Isabel Allende con la traduzione di Grazia Mercedes Sanna. Perché in questo momento in mia vita io tengo più di 70 anni. Perché in questo momento della mia vita, in cui io ho già più di 70 anni, effettivamente questi sono i temi che mi sono più vicini: amore, perdita, romantico, amore romantico, vecchiaia, l'avvicinarsi della morte, la memoria. E quindi chiaramente questa è una storia che per me è particolarmente importante, proprio perché la protagonista ha 80 anni. Alma è un personaggio anche misterioso, insomma, ha avuto un passato molto difficile. Era una bambina ebrea polacca, era stata mandata dai genitori da alcuni zii negli Stati Uniti, insomma ha una vicenda molto dolorosa alle spalle. Che cosa si porta di questa vicenda? Credo che lo che abbiamo in comune Alma e io. Io penso che qualcosa che abbiamo in comune è il fatto di essere entrambe emigranti, Alma ed io. E siamo due persone che si sono dovute spostare da un luogo ad un altro. Il nostro passato è altrove e anche Alma ha dovuto adattarsi a una nuova vita. Ha avuto una vita difficile, ha avuto un'infanzia difficile soprattutto, però ha sempre avuto anche denaro e ha sempre avuto molto affetto da parte dei suoi genitori adottivi, gli zii. Padri adottivos. Tu una vita facile. Isabel Allende oggi è americana a tutti gli effetti, ma dentro come si sente? Cilena. Assolutamente cilena e latinoamericana. Ripeto, cilena. E chiaramente parlo inglese, parlo però sempre col mio accento, quindi sarò sempre straniera. Sempre sarò straniera. Quindi lei scrive in spagnolo? Sì, solamente in spagnolo. Puedo scrivere un articolo di prensa? Sì, io scrivo solo in spagnolo. Posso scrivere un articolo per la stampa in inglese, un discorso, ma ciò che è narrativa assolutamente in spagnolo, perché la narrativa è qualcosa di organico, non passa attraverso il cervello, ma passa attraverso la pancia, la barriga. Tornando ai personaggi del romanzo, parlando del passato di Alma e della sua amicizia appunto con l'amante giapponese che dà poi il titolo al libro, lei accende una luce su dei fatti storici che vengono poco ricordati. Dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor, gli americani crearono dei veri e propri campi di lavoro, campi di concentramento, possiamo proprio chiamarli così, dei giapponesi. Spesso nei suoi libri lei accende un faro su un periodo storico o politico particolare. In questo caso perché ha scelto questo? Quando scrivo una novella, sempre hago la investigación de la época y del lugar donde ocurren los hechos. Quando io inizio a scrivere un romanzo, studio l'epoca e il luogo in cui i fatti si svolgeranno. In questo caso, dato che i personaggi erano persone di 80 anni e mi sono chiesta che cosa fosse successo in quegli 80 anni di vita, e quindi c'era stata la Seconda Guerra Mondiale, l'attacco di Pearl Harbor e che cosa era successo in quel caso appunto ai giapponesi e giapponesi residenti in America dopo l'attacco di Pearl Harbor, e a quel punto è venuto fuori il fatto dei campi di concentramento in cui furono rinchiusi circa 120.000 giapponesi, cioè cittadini americani di origine giapponese, per 4 anni e mezzo. In questo caso persero tutto, e soprattutto qualcosa che è grave è che si sa molto poco di questi fatti sia al di fuori che dentro gli Stati Uniti. Esto es algo que no se conoce bien afuera ni en Estados Unidos tampoco. Ecco, un romanzo, la letteratura può aiutare anche a far luce su fatti storici di cui normalmente magari non si parla. Sì, io credo che sì, se puede contar algo che tal vez se conosce poco. Sì, però penso che si possa raccontare qualcosa di cui si sa poco, per esempio. Ma il mio lavoro non è quello di lanciare un messaggio o di predicare. Io voglio solamente raccontare storie. Ora, se così facendo il lettore scopre qualcosa che gli può servire, può essere utile, bene, sono contenta, ma la mia missione non è quella di predicare. Encuentra algo che le pueda servir, bien, pero no es mi intención. Il rapporto fra Alma e Ichimei è molto tenero, è molto bello fin dall'inizio, si conoscono da bambini, prima c'è l'amicizia, poi l'amore, un amore che praticamente non li lascia mai per tutta la vita, anche se prendono strade diverse. Questo secondo lei è un aspetto veramente di fiction o è qualcosa che può accadere nella vita? Io credo che può succedere. Penso proprio di sì, penso che un amore eterno, cioè che duri tutta la vita, possa succedere se si tratta di un amante. Ora, se si tratta di un marito, già è più difficile, non so. Non so, francamente. Il lettore viene a scoprire la storia, soprattutto il passato di Alma, pagina dopo pagina, attraverso un po' quelle che sono le scoperte che fa Irina. Irina è una ragazza che lavora nella casa di riposo dove Alma ormai risiede e diventa un po' la sua assistente, la sua segretaria, la sua tuttofare, e fa amicizia anche col nipote di Alma, Seth. Irina anche è una donna che ha avuto un passato molto difficile. Questo la accomuna un po' ad Alma, forse hanno la stessa sensibilità. Credo che il personaggio di Irina è molto interessante. Il personaggio di Irina è un personaggio molto interessante perché è una ragazza che è stata traumatizzata da un passato di abusi sessuali, e verso Alma la spinge la curiosità di conoscerla, perché la vede come molto diversa da lei, e l'idea che Alma possa amare Irina è qualcosa che è difficile per lei da accettare, da capire. Irina le fascina perché ella non può amare. Il rapporto fra Alma e Irina secondo me è bellissimo, perché Alma un po' la considera sua figlia e Irina un punto di riferimento. Come se l'è immaginato? Perché ha voluto creare, perché ci ha voluto raccontare la storia di Alma attraverso le scoperte di Irina? Quando comincé la novella, all'inizio, quando ho dato il via al romanzo, la voce narrante era Alma in prima persona. Ma in questo caso mi sono resa conto poi che non c'era suspense, e quindi a questo punto è subentrata Irina, perché in questo modo avrebbe scoperto piano piano il personaggio di Alma. Scubra de a poco. In tutta la sua carriera trovo che lei abbia cambiato anche stile in alcuni romanzi. Non so, tutti ricordiamo La casa degli spiriti, grande bestseller, il suo primo romanzo. Aveva un linguaggio forse tipico della letteratura latinoamericana, il realismo magico. Invece in questo, L'amante giapponese, c'è una scrittura molto più pulita, netta. Lei ha avuto modo di sperimentare diversi stili. Come fa a cambiare? Dipende dai personaggi che sceglie, dalla storia o dal periodo che lei sta vivendo? Dipende dal tempo. Scrivi La casa de los espíritus hace más de 30 años. Dipende dal tempo, dal periodo in cui vivo. La casa dello Spiritus, la casa degli spiriti, è stata scritta 30 anni fa. Quindi il mondo è cambiato, lo stile letterario è cambiato e il mio tempo è cambiato, io sono cambiata, vivo in inglese, la mia vita si svolge in inglese e quindi l'inglese è una lingua che ha meno aggettivi, pochi aggettivi, e lo stile barocco non funziona. E tra l'altro il realismo magico non è una sorta di condimento sale e pepe che si possa distribuire a piacimento, ma funziona solo quando è veramente adatto ed è giusto per quello stile. Funziona con certas historias e con otras no. Che rapporto ha lei oggi col suo primo romanzo che l'ha portata al grande successo? Insomma, cosa rappresenta per lei La casa degli spiriti? La casa de los espíritus abrió el camino. Penso che La casa degli spiriti ha aperto la strada a tutti gli altri libri che sono venuti poi. Io ho mantenuto gli stessi editori e gli stessi lettori, anche se poi se ne sono aggiunti altri. Ripeto, ha aperto la strada e io non sarei la scrittrice che sono oggi senza il successo della Casa dello Spirito. Sin l'esito della Casa dello Spirito. Spesso lei nei romanzi racconta molto di sé, dalla Casa degli Spiriti, la sua famiglia, addirittura Paola, dove ha raccontato proprio il rapporto con sua figlia che purtroppo è morta per una grave malattia. Lei ripete spesso che, soprattutto a proposito di Paola, che la scrittura è stata una forma anche di guarigione per lei, una forma di cura. Ma perché continua a mettersi così tanto a nudo di fronte ai lettori? Racconta veramente tanto di sé e delle sue emozioni. Mi madre dice che io sono molto vulnerabile. Perché tutto lo cuento. Mia madre dice che mi rende vulnerabile il fatto che io racconti tutto. Ma io le rispondo in questo modo: ciò che mi rende vulnerabile non è ciò che io racconto, ma sono i segreti che posso nascondere. Io sono come gli altri, tutti abbiamo una vita da condividere. Non hay nada que esconder, nada que ocultar. È vero che inizia a scrivere ogni suo romanzo l'8 gennaio, come aveva fatto nel caso della Casa degli Spiriti? È superstiziosa? Superstiziosa e disciplina, también. Sì, superstizione ma anche disciplina. Perché io ho una vita complicata, infatti non si tratta solamente di scrivere, devo occuparmi delle interviste, di rivedere le traduzioni, di viaggiare per le promozioni, eccetera. Quindi sono tutta una serie di attività che non hanno a che fare con la scrittura. E quindi per me è importante riuscire a separare, ad avere dei mesi per scrivere. Quindi se io ho questo giorno, che è l'8 gennaio, in cui tutti sanno che da quel giorno io non sono disponibile, ecco, quello è un tempo che per me è necessario per la mia scrittura. Non sto disponibile, già desaparezco l'8 gennaio e questo mi serve per scrivere. E questa era Isabella Allende, ora in libreria con L'amante giapponese, pubblicato da Feltrinelli. L'Allende ha anche inaugurato a Milano Book City, manifestazione con oltre 800 incontri con scrittori, che terminerà domani sera. Breve pausa, poi ancora un altro libro. Il cacciatore di libri. Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Come bella la città. Non è una mia affermazione, ma è il titolo di un libro, sottotitolo Milano raccontata dai suoi protagonisti. È un libro che ha scritto Massimiliano Chiavarone, giornalista, filmmaker, ho visto nella tua biografia c'è di tutto praticamente, insomma. Ma la cosa curiosa è che a parlare, e bene, di questa città di Milano, della città da cui trasmettiamo, sono alla fine due pugliesi, perché Massimiliano Chiavarone è originario di Foggia, io come spesso vi dico sono originaria di Bari, ma adoro fondamentalmente questa città. Quindi, da pugliese a pugliese, Massimiliano, come ti è venuto in mente di scrivere un libro che esaltasse in qualche modo gli aspetti anche positivi, gli aspetti belli della città in cui viviamo, Milano? Innanzitutto da un punto in comune che secondo me hanno i pugliesi e i milanesi. Diciamo anche che io sono di Foggia, appunto, perché tu di Bari, siamo pugliesi. Quindi... Ecco, comunque la nostra caratteristica è quella dell'intraprendenza, secondo me. È un po' una caratteristica regionale che si identifica e come dire, fa da compagna all'intraprendenza milanese. Si associa, si accosta benissimo a quella milanese. Allora, stiamo parlando di Milano, ma non per essere milanocentrici, perché questo è un libro che non interessa solo le persone che vivono a Milano. Di Milano si sta parlando molto negli ultimi mesi, naturalmente per l'Expo è inevitabile, quindi la consideriamo un po' la seconda capitale d'Italia. E questo può essere un libro per chi ha voglia di scoprire una città che spesso è considerata, come dire, con alcuni pregiudizi, senza andare un po' al di sotto di quella che è la, come dire, la patina superiore. Allora, tu hai incontrato e intervistato diversi personaggi che vivono a Milano, pur non essendo tutti milanesi ovviamente, e ti sei fatto raccontare le loro impressioni, le loro sensazioni. Mi piace partire da Walter City, perché insomma questo è un programma che si occupa di narrativa. Tu hai intervistato diversi scrittori, addirittura anche Jeffrey Deaver, mago del thriller, insomma. E Alberto Espinosa, insomma, l'autore di Braccialetti Rossi. Però partiamo da Walter City, perché nelle pagine a lui dedicate lui dichiara una cosa per me molto bella. Scrivi tu: è una città con i piedi per terra, qui il cielo non è infinito, bisogna meritarselo. Che ricordo hai di questo incontro con Walter City? Meraviglioso. Walter City è un grandissimo scrittore ed è poi un professore di letteratura. Lo era, un professore di letteratura italiana, una delle mie materie preferite in assoluto. Il ricordo con il professore, io lo chiamo professore appunto, certo. Il professor City, è comunque Walter, ecco, è meraviglioso perché è un uomo che azzecca sempre le cose, le dice sempre, è un po' come Milano, chiama sempre proprio le cose con il proprio nome e chiede sempre ragione di quello che sta accadendo e chiede delle spiegazioni e le fornisce anche in maniera molto, molto chiara, molto razionale. È un uomo con una grandissima profondità, una capacità di introspezione notevole, ma anche, come dire, un disincanto però non freddo, un disincanto che ti si accosta, forse anche un po' affettuoso. Anche costruttivo a volte, perché comunque riesce sempre a cogliere l'aspetto, insomma, che può dare la svolta alle situazioni. Infatti, però è anche vero che, a parte appunto la capacità che ha lui di creare, di costruire, è anche un po' uno che ti capisce, ti comprende, e questa è una capacità che non è comune. No, che è rara. Allora, altro scrittore, l'abbiamo citato prima, Jeffrey Deaver, maestro americano proprio del thriller, amatissimo anche in Italia. Che cos'è che l'aveva colpito di Milano? E che tu hai riportato poi nel tuo libro. E questo mi dà la possibilità di spiegare. Questo libro è una raccolta di 52 interviste, però interviste particolari, perché ogni personaggio racconta Milano anche attraverso una strada della città a cui si sente legato. Quindi mettendo insieme queste interviste si ha una mappa, come posso dire, inedita, sì, alternativa, sì, perché è un racconto della città come mai era stato fatto prima, perché è un racconto fatto su emozioni, su storie. Ho scelto proprio un luogo, per esempio Jeffrey Deaver, via Festa del Perdono, dove c'è l'università statale, perché lui lì ha tenuto delle lezioni ed era stato colpito anche dalla capacità degli allievi, dei partecipanti, di inserirsi nel dialogo, nel parlare con lui, nel fare delle osservazioni, come dire, precise, che potessero quindi stimolare poi anche la sua lezione. Lui poi chiaramente lavora sempre con il cervello dello scrittore di thriller, e quindi abbiamo via Festa del Perdono, che nella storia è stato inizialmente appunto Cagrande, il grande ospedale milanese, poi a fianco c'è la morgue, che da non sottovalutare attualmente, poi c'è comunque il policlinico, quindi l'università, chissà, la morgue, la mente malata, lo dico in senso buono, di Jeffrey Deaver, che cosa ci ambienterebbe in quella zona di Milano. E aveva già pensato e mi aveva dato già i plot, per così dire, gli intrecci di diversi romanzi thriller che ruotavano tutti attorno all'Università Statale di Milano, che poi tra l'altro il contesto è meraviglioso dal punto di vista architettonico, urbanistico. Ci sono tanti personaggi appunto che ti hanno raccontato le loro storie. In base a che criterio li hai scelti? Adesso ho voluto parlare degli scrittori perché questo è un programma di libri, di narrativa, però da che cosa ti sei fatto guidare quando li hai scelti? Roberto Vecchioni, Paola Marelli, Finardi, Amanda Lear, Paolo Rossi, Philippe Daverio e così via. Allora, da due criteri. Innanzitutto io non volevo che a raccontare Milano fossero solo i milanesi. Allora, il libro è formato da 52 interviste, trae spunto da, si basa su una pagina che io continuo a fare per Il Giorno ormai da 3 anni, che si chiama Spasso Con, in cui intervisto i personaggi a partire appunto da una strada della città a cui si sentono legati. Quindi questo libro in realtà è una selezione di queste interviste, però riconfezionato, perché diventa poi, siamo in radio, possiamo dirlo, anch'io lavoro per una radio tra l'altro, e ha una struttura radiofonica, nel senso che tra un'intervista e l'altra mi inserisco io sempre a spot, raccontando in breve il mio rapporto con la città, stimolato dal racconto degli altri, oppure svelando anche qualche dietro le quinte, semmai buffo, delle interviste. E proprio come una struttura radiofonica mi inserisco disannunciando l'intervista da cui esco e annunciando quindi quella successiva. I criteri, dicevo, che mi hanno guidato nella individuazione dei personaggi sono due. Innanzitutto, non esclusivamente milanesi, perché questa città ha mille anime. E poi un altro elemento fondamentale è anche quello di mescolare i registri, quindi il registro colto e il registro pop. Quindi abbiamo Walter City, ma abbiamo anche Valeria Marini, abbiamo Michelangelo Pistoletto, ma abbiamo anche Enzo Iacchetti, e ricordiamo che la prefazione è di Gino e Michele. Raccogliendo un po' tutte queste storie, prima per Il Giorno e poi mettendole insieme in questo volume, Come bella la città, c'è qualche storia che ti ha stupito particolarmente? Qualcuno che ti ha detto qualcosa che proprio da lui o da lei non te lo saresti mai aspettato? C'è un aneddoto, se possiamo chiamarlo così, sì, comunque un aneddoto che è abbastanza buffo, che è quello di Amanda Lear. Effettivamente non me lo sarei mai aspettato, e credo che sia un inedito che lei ha svelato solo nella mia intervista. Allora, l'esordio della carriera di Amanda Lear. Siamo nel 79, lei viene a Milano per lanciare il suo singolo Blood and Honey. La carriera da dove comincia? Da Milano. Prima tappa del tour italiano di Amanda Lear. Cioè, solo però c'era il problema di capire dove provare, perché non c'era lo spazio adeguato, perché Amanda aveva anche tutta una serie di scenografie da mettere nello show che richiedevano il loro spazio. Quindi alla fine non si trovò un teatro, ma si trovò una caserma, quindi era piena di soldati. Allora immaginatevi la scena: Amanda Lear entra fasciata con una tutina tigrata che cantava Blood and Honey and Voulez-vous un rendez-vous tomorrow. In mezzo ai militari. Allora, la situazione fu molto comica, lei stessa lo racconta, perché i soldati, colti dall'entusiasmo, non volevano più farla uscire da sta caserma. E allora, per scoprire un po' Milano, anche i lati nascosti, e per vedere che cosa persone famose di qualsiasi tipo e genere, abbiamo detto, pensano di questa città, Come bella la città, Milano raccontata dai suoi protagonisti, scritto da Massimiliano Chiavarone e pubblicato da Light Edition. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Filippo Aureggi e Pietro Lacorte. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.